Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Ed eccoci ritrovati ad una nuova puntata di Medium, il podcast su Netrunner. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare un po' di persone che hanno non solo ascoltato il podcast, ma lo hanno anche commentato sul forum di netrunner.it. Ringrazio Flatline per aver individuato un gravissimo errore che ho fatto, ovvero ho citato Crash Space quando in realtà volevo dire Compromised Employee. Cito le testuali parole di Flatline. Grazie Flatline. In più ringrazio Paddo e gli altri come Sub-Zero, come BlackPix, che hanno tutti quanti ascoltato il podcast e lo hanno commentato sul forum. Passiamo quindi alla parte che ci interessa, cioè il gioco. Passiamo alla prima rubrica. Enigma, how to build a perfect R&D. Oggi nella rubrica dedicata al deck building parliamo di come gestire l'influenza. La rubrica si potrebbe riassumere semplicemente dicendo: prendete la corporazione che volete utilizzare e quindi andate a guardare tutte quelle carte che danno la possibilità a quella corporazione di compensare le sue debolezze. Faccio un esempio classico: NBN è un'ottima corporazione, ci piace moltissimo a tutti quanti, ma a pochissimi ice che fermano la run. I primi due ice che mi vengono in mente sono Roto Turret e Ice Wall, chiaramente. Questi due a pochissimo di influenza, uno, quindi complessivamente 6, ci danno 6 ice che fermano la run, e in più qual è la cosa bella? Che l'influenza gestita in questa maniera ci dà la possibilità di creare un effetto sorpresa nei confronti del runner, che chiaramente non si aspetta un Roto Turret, non si aspetta quindi un gioco aggressivo da un NBN, teme magari gli archetipi dell'NBN che sono ti metto la tag e poi ti faccio le cattiverie con le carte che richiedono che tu sia taggato, ma non pensa per esempio che NBN potrebbe ignorare completamente questa strategia e usarla semplicemente come spauracchio per non farti passare attraverso un Data Raven, piuttosto che per farti tenere molte carte in mano nella paura che NBN abbia il famigerato splash di Wayland con Scorched Earth. Quindi in generale l'idea che ho io di come si spende l'influenza è: spendetene per tante diverse tipologie di carte, quindi spendetela per carte che hanno un basso livello di influenza, e in più spendetela per compensare quello che può essere la debolezza tipica della corporazione che si sta utilizzando. Faccio un esempio di nuovo: se proprio volete giocare Jinteki, andate a compensare la mancanza di denaro di Jinteki magari con degli asset tipici di HB come Eve Campaign o Adonis Campaign. Al contrario però, se non giocate Jinteki, usate molto Jinteki, per esempio usate gli snare, usate il chum che è veramente inaspettato e ha un effetto eccezionale al costo di uno solo di influenza, usate i jumbug come trappole, prendete il meglio di Jinteki e andatelo a splashare sulle altre corporazioni che non hanno così tante trappole. Sì, chiaro, ogni corporazione tranne forse Wayland ha la sua trappolina, però la più interessante forse è Jumbug, proprio perché è un instant kill la maggior parte delle volte che qualcuno ci casca. Passiamo allora, visto che abbiamo parlato di NBN, alla prossima rubrica che vi parlerà di una carta NBN a me molto cara. Tollbooth, analyzing the data from every perspective. La carta del giorno è Data Raven. Questa carta secondo me dà il suo meglio per rappresentare quello che può essere lo spirito della Corp NBN. A costo 4 abbiamo un Ice che ha 4 di forza, una Sentry chiaramente visto l'approccio aggressivo che Data Raven ha nei confronti del runner. Il runner appena lo incontra deve decidere se fermare la sua run oppure se ricevere una tag. Ma, importante, una cosa importantissima, questa non è una subroutine, quindi questo non è un qualcosa che il runner può rompere attraverso i suoi icebreakers, ma lo deve fare semplicemente o bypassando l'ice, oppure deve per forza incontrare questo tipo di effetto che si genera. La maggior parte delle volte quindi che un runner vuole passare attraverso un data raven lo dovrà fare solamente decidendo di prendere la tag e poi se vuole rimuovendola in un secondo momento. Quindi a tutti gli effetti ti ruba un click e due crediti nel momento in cui tu vuoi passarlo. Nel momento in cui poi invece la trace parte, quindi la subroutine parte, data raven è ancora più subdolo, perché ti dice: guarda, se fai passare questa trace non succede mica nulla lì per lì, io metto semplicemente un mio power counter su data raven e poi però questo power counter, sai, quando lo potrò togliere, quando lo toglierò, ti affibbierò una tag. Questo fa sì che data raven sia molto temuto in virtù del fatto che consente al runner di assegnare una tag nel turno del runner, quindi andando a generare le possibilità che tutti noi sappiamo, per esempio con Scorched Earth, Closed Account, o anche semplicemente per ti affibbio una tag, non te la puoi togliere durante il mio turno e quindi io ti spacco le risorse che tu hai a disposizione. Data Raven è un tipo di ice che chiaramente non va in tutti i mazzi, è un ice che vedo molto bene splashato in mazzi anche che non siano NBN, riprendendo quindi il tema della rubrica precedente, e io lo consiglio solamente in quei mazzi che hanno almeno una forma di punizione della tag. In generale, se invece il mazzo non prevede nessuna forma di punizione, per esempio non prevede Scorched Earth, per esempio non prevede Dedicated Response Team, per esempio non prevede Closed Account, in generale è uno spauracchio che dopo un po' tende a perdere la sua potenza. Va da sé però che se stiamo incontrando una persona che non conosce affatto il nostro mazzo e che quindi non può sapere se noi lo prevediamo una punizione per chi riceve tag, Data Raven è veramente interessante in virtù del fatto che è una sentry che non può essere rotta da Mimic se non in groppa al dinosauro, e anche comunque gli altri icebreaker che rompono le sentry fanno molta fatica a rompere una ice con una forza 4, quindi a costo 4 abbiamo un ottimo livello di efficienza con un possibile effetto bluff notevole, sia che noi utilizziamo carte di punizione della tag, sia che non le utilizziamo sotto forma quindi di bluff. Infine è bene ricordare quali sono gli aspetti negativi di Data Raven. Attenzione, può dare dipendenza, cioè possiamo sentirci super sicuri di avere un nostro server molto protetto perché il runner non ha voglia di prendersi la tag e quindi sta evitando di incontrare Data Raven, ma se mettiamo il topolino troppo alle strette, dopo un po' il topolino morde e quindi potrebbe decidere di sbattersene, di prendere le tag, perché magari fa una run finale che lo porta alla vittoria, oppure una run disperata che lo porta con l'obiettivo di avere più agende possibile, e quindi potrebbe cominciare ad ignorare il nostro Data Raven prendendo sia le tag sia i power counter, magari spiazzandoci proprio perché ci eravamo abituati che lui da lì non passava. Ecco, quindi attenzione, Data Raven va magari nel late game confermato con degli ice che terminano la run in maniera un po' più assertiva. Su questo sicuramente si ricorderà il paddo che alla prima partita che abbiamo fatto del Friday Night al Circle Evolution, lui si è presentato con un mazzo NBN che ha proposto subito un Data Raven di fronte, se non mi ricordo male, all'headquarter, e io che avevo un mazzo che era pensato proprio per non avere risorse e sbattersene delle tag, l'ho completamente ignorato, arrivando ad avere non mi ricordo quante tag, ma probabilmente più di 12, e spero di averlo messo un pochettino in difficoltà con questa strategia. Abbiamo finito per quanto riguarda la carta del giorno e passiamo alla prossima rubrica. Breaking news. The future is in your hand. Mi ero preparato la mia cartina da raccontare per bene degli spoiler di Creation and Control, ma poi proprio ieri è uscito tutta la spoiler completa di Creation and Control. Ora, chiaramente non andrò nel dettaglio di ogni singola carta, però posso dire che questa espansione, in virtù del fatto che sono molte carte che escono tutte quante insieme e in virtù proprio delle carte che sono uscite, questa espansione sicuramente cambierà il metagame e il gioco in generale. Non lo cambierà purtroppo per quanto riguarda le corp, perché HB esce fuori ancora più rivitalizzata e quindi continueremo a vedere HP, quindi tanto viola nei tavoli durante i tornei. Per quanto riguarda invece le altre corporazioni, direi che c'è l'imbarazzo della scelta, ma in generale ho la sensazione che Jinteki abbia uno spiraglio di poter generare un mazzo più interessante di quelli che finora ha proposto. Già l'arrivo di Ronin lo aveva in un certo senso rispolverato. Abbiamo visto che uno dei recenti tornei è stato proprio vinto da un mazzo, da un giocatore che portava Jinteki e Gabriel. Però ecco, attenzione, le carte che sono state proposte su Creation and Control potrebbero aiutare. In particolare ce ne sono alcune che possono veramente aiutare Jinteki notevolmente. La prima che mi viene in mente è tutta quella serie di nuove carte che consentono a Jinteki di implementare la propria economia, e anche qualche trappolina in più che Jinteki potrebbe implementare per riuscire nel suo agognato desiderio di uccidere il runner. Per quanto riguarda HB, potrebbe vedere dei nuovi archetipi. Uno di questi potrebbe essere l'HB che gioca tantissimi ice molto forti e fondamentalmente scora semplicemente agende 5x3 o addirittura anche mandatory upgrades. Questo per quale motivo? Perché questa nuova identità di HB ci consente di poter mettere degli ice o comunque fare delle installazioni di ice prima di cominciare la partita e poi addirittura ripescare le carte che abbiamo consumato in questa maniera. Quindi fondamentalmente, se siamo fortunati, ci ritroviamo un turno avanti rispetto al runner. Paghiamo tutto questo chiaramente non potendo mettere molta influenza, ovvero avendo 3 punti influenza in meno, chiaramente non avendo il bonus di HB, cioè di prendere un soldo tutte le volte che facciamo la nostra prima installazione. Questo nuovo archetipo potrebbe farsi vivo perché chiaramente ci sono dei nuovi ice molto potenti che non si possono più rompere con tanta facilità con i click, tutti i 2.0, e ci sono dei bellissimi nuovi asset che consentirebbero quindi ad HB, senza troppa influenza, di poter essere interessante, e finalmente ABS potrebbe essere scorata senza la paura di dover mettere degli asset o delle agende, in virtù del fatto che magari di agende ce ne sono meno e ci sono tanti ice. Un altro archetipo che vedremo probabilmente sarà l'HB che cercherà di ucciderti con il brain damage, ma su questo sono meno sicuro. Forse farà parte della strategia del data fort. Passiamo adesso quindi alla rubrica sul metagame, ma non quello futuro che vedremo con Creation and Control, ma quello che stiamo vivendo in questo momento. Parliamo, ormai l'avrete capito che la puntata è tutta dedicata alla corporazione in giallo, parliamo quindi del metagame attuale di NBN. Hedge Fund, the meta, unveiled. Se facciamo una veloce ricerca mettendo NBN su CarGameDB, vediamo che le due parole che vengono fuori più frequentemente, forse anche tre, però principalmente due, sono NBN Never Advance e NBN Fast Advance. Questi due archetipi sono simili al HB Rush e HB Fast Advance, in virtù del fatto che entrambi hanno più o meno lo stesso criterio di comportamento. NBN ha quindi a disposizione, come per HB, 6 agende 3x2 e riempie le altre con chiaramente Breaking News e Private Security Force. Il mazzo più o meno funziona come il Fast Advance di Bioroid, con l'unica opzione del fatto che, non essendoci i Biotic Labor, si utilizza forse un po' di più il Trick of Light, forti del fatto che invece di Sansan City Grid ne possiamo mettere 3 senza nessun problema. Il Fast Advance NBN ha un potere tremendo dal punto di vista delle agende. AstroScript Pilot Program, se ti entra in combinazione con altre di loro, chiaramente è infermabile, perché al costo di 9 nell'arco di 3 turni puoi portare appunti 3 agende e ti basta semplicemente aver protetto l'headquarter, che solitamente comunque tu fai già di tuo, quindi vengono scorate tutte quante dalla mano, ti basta semplicemente scorare la prima per poi creare la catena degli AstroScript. Quindi dal punto di vista delle agende forse sono avvantaggiati i NBN, anche perché Project Bill ha il vantaggio di poter essere avanzato oltre i semplici 3 avanzamenti senza la paura di dover regalare punti agenda addizionali al runner nel caso lui te la venga a prendere con qualche trick particolare che non ti aspettavi. Quindi ecco, sul fronte delle agende mi sento di dire che NBN è più forte rispetto a HB. Sul fronte degli ICE avrei qualcosa da ridire. NBN è molto porosa rispetto ad HB. HB è vero che ha il difetto di avere gli ICE che possono essere rotti attraverso i click, quindi anche gli ICE di HB in un certo senso sono porosi, però NBN ha semplicemente 2 colossi che possono essere Flare e Tollboot, se no per il resto non ha ICE di particolare interesse, mentre invece HB, come se non bastasse, oltre ad un'economia florida ha anche degli ICE molto interessanti come Eli, come ICI, come tutti gli ICE che hanno forza elevata in virtù del fatto che sono rompibili con i click. Quello in cui l'NBN invece manca molto è nell'aspetto dell'economia. Market accounts, pad campaign, per quanto possano essere carte utilizzabili in questo formato, non danno ad un mazzo che vuole riuscire a vincere velocemente quel boost di economia che è necessario per riuscire a portare a compimento la propria strategia in breve tempo. Per quanto riguarda invece HB, se facciamo il confronto, abbiamo veramente il meglio che possiamo chiedere per quanto riguarda l'economia, in primis avendo un'identità che già ci dà dei soldi, in più avendo anche una serie di asset che sono invidiati da tutte le corp per quanto riguarda l'aspetto economico, come Eve Campaign e Adonis Campaign. Va da sé che NBN quindi esce fuori un po' penalizzata se vuole imitare il Fast Advance. Forse potrebbe avere più senso un NBN Never Advance che mette a terra sempre solo delle carte coperte senza mai farle avanzarle, e le avanza solamente nel turno, in un unico turno, andandole a scorare, quindi le espone a un possibile attacco del runner, il quale però potrebbe subire delle sorprese come Edge of the World, che è presente in alcuni mazzi Never Advance, e quindi se il runner diventa troppo sicuro del fatto che qualsiasi cosa viene messa a terra lui ci runna contro e se la va a prendere, si becca nei denti 1, 2, 3 brain damage e la partita è più o meno assicurata. Io personalmente altri archetipi non sono convinto di consigliarveli. Sto recentemente giocando un archetipo molto particolare che gioca solamente 7 agende, tutte 5x3 e una PSF 4x2, quindi il quale mi sta dando delle belle soddisfazioni, ma è tutto basato su Scorched Earth, quindi è tutto basato sul fatto che l'avversario non si aspetti che io giochi Scorched Earth quando vede NBN. Magari si prende una taghina, io chiaramente ho la possibilità di taggarlo sia con Data Raven sia con Sea Source, e quindi in questa maniera porto ogni tanto a casa il risultato, però chiaramente come tutti i mazzi Scorched Earth, un Plascrit Carapace e oppure un decoy spengono il mazzo in maniera seria e mi ritrovo a dover provare di vincere con le agende, e quando hai le agende 5x3 dopo un po' cominciano a pompartele dalla mano o dal mazzo e la partita è chiusa. Quindi ecco, per quanto riguarda il metagame, provate l'MBN Never Advance piuttosto che il Fast Advance. Se dovete fare un Fast Advance fate HB. Invece per quanto riguarda il Never Advance sono più tranquillo nel consigliarvelo, in virtù del fatto che questa storia del metto l'agenda, aspetto un turno e se il runner me la viene a prendere potrebbe essere una trappola o potrebbe essere un'agenda vera e propria, consente di creare quella utilissima condizione di incertezza che porta spesso la corporazione alla vittoria. È tutto per oggi, grazie per la vostra pazienza, grazie per l'ascolto, spero di non aver fatto errori madornali, sicuramente qualcuno ne ho fatto, e niente, vi do appuntamento alla prossima puntata, che chiaramente non sarà una puntata dedicata solo al runner o solo alla corporazione, ma sarà una intera puntata dedicata a Creation and Control. Non andremo a guardare tutte le carte una per una, però farò una selezione e comunque faremo un'analisi magari un po' più approfondita della cosa. Per oggi è tutto, ciao! I've seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.